impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Famiglia Noberasco. Frutta bio, secca e disidratata da oltre 100 anni. Di Alessandra Tedesco. La storia che raccontiamo oggi inizia nei primi del Novecento in Liguria, precisamente nella piana di Albenga, famosa per i suoi prodotti agricoli. Frutta e verdura sono nel DNA anche della famiglia Noberasco, in particolare di Benedetto, che nel 1908 fonda la ditta individuale Benedetto Noberasco, un'azienda che si dedica alla distribuzione di prodotti agricoli freschi, come racconta Mattia Noberasco, direttore generale. Mio bisnonno Benedetto nel 1908 ha deciso di intraprendere questa attività cominciando a distribuire i prodotti freschi dalla piana ortofrutticola di Albenga. Il bisnonno ha cercato di trovare fin da subito dei nuovi strumenti di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, che ovviamente avevano il problema della deperibilità molto precoce, per cui fin dagli inizi della nostra storia abbiamo sempre cercato di trovare delle tecnologie innovative per consentire il consumo di frutta, ovviamente lontano dal momento del raccolto. Ma l'azienda ovviamente è partita con le 1.000 lire di capitale sociale che abbiamo trovato facendo un po' di storia della nostra impresa, quindi insomma sappiamo qual è stato il capitale sociale iniziale. Ovviamente il territorio inizialmente era quello limitrofo alla Liguria, però è chiaro che i grandi mercati erano quelli delle grandi città, quindi Milano, Bologna, Roma e quindi Verona, e quindi il bisnonno si è attrezzato per cercare di trovare un mezzo di trasporto adeguato che non fosse il carretto per consentire il trasporto di frutta. Quindi siamo stati i primi a utilizzare dei frigoriferi refrigerati su rotaia, siamo stati i primi a importare poi anche prodotti da altri paesi per cominciare a distribuirli poi nei mercati principali, che ovviamente erano quelli delle grandi città urbane, che ovviamente si stavano popolando molto rapidamente. Fra gli anni 20 e gli anni 30 in azienda entra il figlio di Benedetto, Pierluigi, destinato a guidare la Noberasco fino al 2000. Sono anni difficili, quelli fra le due guerre, che però vedono anche la prima svolta proprio grazie a Pierluigi, il confezionamento di frutta secca. Ovviamente abbiamo dovuto superare due guerre e questo non è stato ovviamente semplice, quindi l'azienda ha dovuto un pochino ricominciare da zero nel secondo dopoguerra. Abbiamo iniziato poi anche a confezionare prodotti essiccati, quindi l'azienda poi ha iniziato a cominciare ad approcciarsi ai primi datteri che venivano a Marsiglia e qui è stato la persona che ha dato un po' la svolta a tutta la nostra attività, è stato il nonno, che ha dato un pochino un respiro un pochino più innovativo e internazionale all'azienda. Dalla distribuzione della frutta fresca, dunque, Noberasco inizia a puntare alla frutta secca. Questa svolta, fondamentale nella storia dell'azienda, avviene in via definitiva negli anni 60. Nel periodo del grande boom economico, ovviamente lo sviluppo di catene strutturate per la distribuzione di prodotti confezionati ha fatto sì ovviamente che ci fosse l'opportunità di proporre dei prodotti che fino a quell'epoca erano praticamente introvabili e molte persone non li conoscevano, per cui la svolta è stata un pochino quella. Poi noi ci siamo resi conto negli anni 60-70 che il mondo della frutta fresca stava diventando qualcosa di molto diverso. Infatti poi si sono formati dei grandissimi gruppi sia in Italia che all'estero ed oggi la concentrazione è globale. Poi piano piano ovviamente, visto lo sviluppo dei nostri prodotti e degli spazi espositivi dedicati ai nostri prodotti all'interno di supermercati, abbiamo iniziato a investire in maniera importante sulla nostra marca, cominciando a costruire un pochino la marca Noberasco, e quindi poi da lì è stato un percorso di costante crescita, ecco, che siamo ancora tuttora oggi portando avanti. Non sono mancati momenti di difficoltà nella storia di un'azienda così longeva. Per esempio, alla fine degli anni 80, l'incendio di uno stabilimento è andato quasi completamente distrutto. In altri periodi, invece, apparenti difficoltà dovute al cambio del mercato e delle abitudini dei consumatori si sono trasformate in opportunità. Eravamo distributori di molti marchi esteri, di grandi gruppi che confezionavano frutta secca in giro per il mondo. Noi avevamo concessionari di alcuni marchi, questo negli anni 90. Noi abbiamo perso alcune concessioni e quindi abbiamo dovuto far fronte a una perdita importante di fatturato, che poi è mancato dall'oggi al domani, quindi parliamo di miliardi di lire, perché all'epoca parliamo veramente di grandi cifre. Ci siamo trovati da oggi a domani senza avere un pochino la nostra linea di punta, che erano le prugne secche. Quindi l'azienda ha avuto la capacità in quel momento di reinventarsi. Abbiamo deciso di investire su le nostre prugne, quindi le prugne Noberasco, cercando di trovare qualcosa di differente rispetto a quello che era i prodotti presenti sul mercato, e quindi abbiamo investito sul prodotto senza conservanti, che all'epoca era una grandissima innovazione. Negli anni a seguire abbiamo deciso noi di abbandonare i marchi terzi per puntare solo esclusivamente su il nostro prodotto confezionato solo esclusivamente da noi. Noberasco dunque si concentra sul proprio marchio, ma soprattutto sceglie il biologico come fiore all'occhiello della sua produzione, tanto che in questo campo l'azienda copre il 90% di quota di mercato in Italia. Dopo l'investimento nel senza conservanti è venuto un po' naturale fare l'investimento sul biologico. Parliamo di frutta morbida, reidratata, sempre con questo processo che abbiamo inventato noi di reidratazione e pastorizzazione nello stesso processo, in cui poi appunto ci consentiva di confezionare i nostri prodotti a caldo, quindi si chiama hot filling, quindi noi praticamente avendo un processo in linea. È un'innovazione importante che poi ci ha consentito negli anni di crescere tantissimo nel mercato internazionale, prevalentemente però con accordi di private label. Abbiamo identificato un trend che è in costante crescita, perché noi dagli anni 2000 praticamente siamo cresciuti a due cifre sul biologico, e ancora quest'anno riscontriamo due cifre di crescita sul biologico, che mediamente ha un prezzo superiore rispetto a quello che è un prodotto convenzionale, ma comunque anche nel periodo della crisi c'è stato un consumatore che ha deciso di rinunciare ad altre cose. Quindi nonostante il prezzo dei nostri prodotti sia molto elevato, e questo continua oltretutto a crescere perché il consumo mondiale di frutta secca è esploso. Oggi le quotazioni sono a volte valide per 24 ore, quindi è un prendere o lasciare, dove molto spesso i nostri fornitori non sono disposti a cedere di un centesimo. Negli ultimi anni la crisi non tocca l'azienda, perché il prodotto frutta secca o frutta disidratata è diventato di moda e i consumi reggono. E così Noberasco decide di intensificare gli investimenti. 30 milioni di euro per costruire un nuovo stabilimento a Carcare, provincia di Savona, al confine fra Liguria e Piemonte. Uno stabilimento appena avviato che permette di incrementare la produzione. Dalle 12.000 tonnellate all'anno si passerà a 35.000 tonnellate, ossia 150 tonnellate al giorno, fra prodotti secchi e disidratati. In termini di fatturato, il 2014 si è chiuso a 91 milioni e per il 2015 il management Noberasco punta a superare i 100 milioni di euro. In particolare si sta puntando molto sui prodotti porzionati, sia per il prezzo finale più contenuto, sia per le abitudini del consumatore, che sempre più spesso usa la frutta secca o disidratata come snack. Per Noberasco l'Italia è ancora il mercato principale, ma l'export sta prendendo sempre più piede. È chiaro che il mercato Italia per noi è il mercato di riferimento. Questo ci deriva dal fatto che la storia della nostra famiglia, della nostra impresa, ci ha consentito negli anni di raggiungere delle posizioni molto importanti su alcuni mercati, e quindi abbiamo una conoscenza del marchio ovviamente diversa rispetto a quella che è sui mercati internazionali. Quindi l'Italia pesa ancora circa il 90%, se facciamo una questione di valore, di fatturato, diciamo. Se però ne facciamo una questione di volumi, l'export oggi comincia a pesare più del 15-16%. In questo stabilimento siamo riusciti sostanzialmente a raddoppiare la capacità produttiva, quindi noi abbiamo investito in capacità produttiva proprio per andare incontro alle esigenze dei mercati esteri, dove i consumi dei nostri prodotti sono molto superiori come consumo pro capite. Nel nord Europa consuma frutta secca, morbida, a colazione, come snack, come fine pasto, come rompidigiuno, la mangiano veramente sempre. Saremo in grado di soddisfare alcune richieste che abbiamo dovuto in parte ritardare proprio per un'assenza, se vogliamo, di capacità produttiva. Ovviamente per noi l'internazionalizzazione è il filone di sviluppo più importante. Abbiamo creato una filiale in Francia, abbiamo fatto questa Noberasco France, che è il primo anno che distribuisce prodotti a marca Noberasco in mercati esteri, quindi è il primo tentativo di esportare quello che è il nostro brand anche al di fuori dei confini nazionali. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.